Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Lago di Como, 27 aprile 1945. Le ultime ore di Benito Mussolini e Claretta Petacci. È la notte tra il 27 e il 28 aprile del 1945. Fa freddo sul lago di Como. A Bonzanigo di Mezzegra ha piovuto tutta la notte. Benito Mussolini e Claretta Petacci hanno trascorso la notte in un'angusta stanzetta al secondo piano di una casa di campagna, sulla collina di Mezzegra che sovrasta il lago. Un letto, un tavolino, due sedie. Un gruppo di partigiani li ha portati lì nella notte. Un lungo viaggio a bordo di due auto. Dalla caserma della Guardia di Finanza di Germasino, sopra Dongo, fino a Bonzanigo. Il capitano Neri, capo di Stato Maggiore della 52esima Brigata Garibaldi, ha deciso che passeranno la notte lì, a casa De Maria. Due anziani coniugi, persone fidate. I due, Benito e Claretta, sono prigionieri. Ancora non lo sanno, ma è la loro ultima notte insieme. I coniugi De Maria sono persone semplici, contadini. La loro è una casa umile, con una cucina al pian terreno e le camere di sopra. Fuori, nel cortile, il bagno, un fienile e una legnaia. Quando hanno capito chi fossero le due persone trasportate di notte nella loro casa, per un attimo hanno avuto un sussulto. Quell'uomo anziano è provato, infatti, è ciò che rimane di uno degli uomini più potenti del mondo, almeno fino a qualche mese prima. Il duce dell'impero e la sua donna. Al secondo piano hanno sistemato una stanza, dove Mussolini e la Petacci trascorreranno la notte. Il duce ha chiesto un cuscino in più. Claretta è rimasta in silenzio. Fuori dalla porta della loro stanza, di guardia, sono rimasti in due, Lino e Sandrino. Neri se n'è andato insieme a Gianna, una ragazza più giovane che sta sempre con lui, e partigiani Pedro, Pietro e agli autisti. Nessuno sa che quella notte cambierà per sempre la loro esistenza. Quella di Mussolini e della Petacci, certo, ma anche quella del capitano Neri, di Lino e Sandrino, della Gianna e dei coniugi De Maria. Il regime è allo sbando, la guerra è persa, i tedeschi sono in ritirata. Rimane solo da decidere le sorti dei gerarchi fermati insieme alla colonna tedesca e il destino del duce. Mussolini è un uomo braccato. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Pare che con sé avesse una borsa di pelle contenente dei documenti importantissimi. Lo cercano gli inglesi, lo cercano gli agenti segreti americani, lo cerca il comando alleato. I vertici del movimento di liberazione, a Milano, sono stati allertati il giorno prima. Molti hanno buone ragioni per volere Mussolini morto, altri preferirebbero averlo vivo. Di una cosa però tutti sono sicuri. I partigiani non intendono lasciarselo scappare. In fondo è merito loro se il duce non è riuscito a transitare in Svizzera. Mussolini e la Petacci sono rimasti nella stanza. Non hanno mangiato quasi nulla. Hanno paura. Non riescono a dormire. Intorno alle 7:30 succede qualcosa. Il rombo di alcune auto nella sottostante via del Riale. Dalle auto scendono degli uomini. Forestieri, pensano Lino e Sandrino che imbracciano i fucili. È a questo punto della nostra storia che succede qualcosa. Qualcosa che fa parte del racconto popolare. Una leggenda, forse. La situazione che sfugge di mano agli attori di questo dramma. Il dramma che si trasforma in tragedia. La tragedia in farsa. Ma non è questo di cui volevamo parlare. Perché su libri di storia la nostra storia finisce in un altro modo. Mussolini e la Petacci trascorrono la giornata a casa De Maria. Nel pomeriggio vengono raggiunti da una delegazione di partigiani. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, in mattinata, ha proclamato la condanna a morte del dittatore. Walter Audisio, Aldo Lampredi e Michele Moretti prelevano Mussolini e la Petacci da casa De Maria. Li conducono nei pressi del cancello di Villa Belmonte, nella frazione di Giulino, e lì, dopo aver pronunciato la frase «In nome del popolo italiano», i due vengono giustiziati. È l'ultimo atto della guerra che per 5 anni ha insanguinato l'Italia. Sono le 16:10 del 28 aprile 1945. Sul lago di Como, a Giulino di Mezzegra, continua a piovere. Cocco e Magella,